cosa se una ripa dispettosa chi li ori gracai vorrei andare e tornare con sta conca fiori meri intelligenti una cosa che non fai ma sta poi si deme se uno ripo chi sta conca non dire ni fraghe ve e non comprenditi mai se li sa devi ciò che rugati ori spazi hai ehi ci punti verso una gara, scroccata sempre te la bolla rogai e ti salura andare e andare anche lui ma come ti butta palla testa risputanai arrienti di me vanno giù chi nighi e gireni con che fraghe me e non comprenditi mai stili star de vincio che rugati ori spazi hai